Blu Radio Veneto. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Iniziamo questo nuovo spazio settimanale, il secondo e l'ultimo giovedì di ogni mese. Siamo all'ultimo giovedì di settembre con il direttore dell'Ufficio Educazione e Scuola della Diocesi di Padova, Don Lorenzo Celi. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, inizia questa collaborazione perché la scuola, appunto, avendo un ufficio di pastorale, la diocesi è nel cuore dei pensieri della Chiesa. Questo spazio vorremmo diventasse proprio un'occasione di incontro e di attenzione da parte della nostra Chiesa di Padova a tutto il mondo della scuola, lasciando voce a coloro che ne sono protagonisti, quindi a partire da quanti svolgono la loro professione, la loro missione come insegnanti, come dirigenti di scuola, ma anche a coloro che sono il centro della scuola, cioè gli alunni, gli studenti e, perché no, le loro famiglie. E li sentiremo appunto di volta in volta. L'hanno iniziato con, credo posso dire, le consuete difficoltà organizzative di ogni anno. Il tuo parere su questi primissimi giorni di scuola? Sentendo un po' l'esperienza dei dirigenti scolastici, anche dell'ufficio scolastico territoriale, ci siamo resi conto che quest'anno è stata davvero una grande fatica rimettere in moto la macchina della scuola, e mi pare che tutti coloro che sono impegnati in questo ci siano riusciti, anche se non mancano delle difficoltà e anche delle contraddizioni nel riuscire a realizzare quello che è il progetto della buona scuola previsto dalla legge 107 del 2015. È passato un anno da quella legge e ci sono ancora alcuni punti che meritano di essere approfonditi e di essere applicati con un'attenzione particolare proprio alla realtà della singola scuola, dove ci sono esigenze particolari, dove anche il principio dell'autonomia richiede una flessibilità e un'attenzione particolare. Le proposte del vostro ufficio sono soprattutto anche di formazione per gli insegnanti. Ne abbiamo già parlato proprio in occasione di quell'incontro che avete organizzato e svolto con il messaggero di Sant'Antonio sul tema delle emozioni. Facciamo un passo indietro a quelle due giornate. Sono stati due giorni molto intensi che hanno visto la partecipazione di circa 700 tra insegnanti di religione, insegnanti di altre discipline, anche dirigenti scolastici della scuola paritaria e della scuola statale, e questo ci ha confermato nella bontà di questa intuizione di aprire proprio uno spazio di incontro all'inizio dell'anno scolastico che possa diventare formazione sempre con un occhio, uno sguardo di attenzione e di simpatia nei confronti dei ragazzi che vengono affidati alla scuola per aiutarli a crescere. E proprio il tema delle emozioni che abbiamo cercato di affrontare da un punto di vista interdisciplinare penso sia stato vincente, perché ci ha permesso appunto di guardare alla realtà complessiva della persona e anche di interrogarci su come viviamo le nostre emozioni rapportandoci ai ragazzi che ci sono affidati. Facciamo un passo avanti alle proposte prossime o già in calendario. Il carnet di proposta formativa che l'ufficio diocesano offre, ripeto, non soltanto agli insegnanti di religione ma a tutto il mondo della scuola, è particolarmente ricco quest'anno ed è ispirato all'enciclica sociale di Papa Francesco, Laudato Si, e anche al recupero dei cinque verbi che il convegno ecclesiale di Firenze ha consegnato alla Chiesa italiana: abitare, annunciare, uscire, educare e trasfigurare. I prossimi due incontri vedranno un approfondimento della dimensione ecologica dell'educazione che viene richiamata proprio anche nella seconda parte dell'enciclica, e vedrà una proposta da parte dei ricercatori della Fondazione Lanza. A novembre poi ci sarà un intervento da parte del sociologo Giuseppe Manzato e del pedagogista Giuseppe Milan dell'Università di Padova, che guarderanno invece alla terra come casa comune dell'uomo, e quindi affronteranno anche il problema della emigrazione, l'opportunità dell'integrazione che proprio nell'ambito della scuola trova il suo ambiente privilegiato e maggiormente chiamato a sviluppare appunto integrazione a partire dalle giovani generazioni. Poi ci saranno anche delle proposte di spiritualità che ci prepareranno ai tempi forti e che vedranno appunto coinvolti i vari protagonisti della scuola. Allora, in chiusura un pensiero anche ai ragazzi, Don Lorenzo, perché l'hai detto tu, insomma, sono protagonisti e coprotagonisti di questo mondo della scuola. Ecco, io mi auguro davvero che i nostri giovani si sentano protagonisti di questi anni di scuola. La scuola non è un peso, ma è tra le opportunità più grandi che vengono loro offerte. Vivere questa opportunità mettendoci mente e cuore è quanto di più bello possiamo fare. E poi spero possano approfittare dell'ambiente scuola per costruire legami importanti tra loro e i loro educatori. È sui banchi di scuola che si imparano valori fondanti come la lealtà, l'impegno, la tenacia. E infine auguro loro di essere curiosi. Studiare significa desiderare, desiderare conoscere. E così magari coltivarsi e lasciarsi coltivare, che è il senso della parola cultura. E qui entrano in campo proprio gli insegnanti. Auguro loro di essere invece dei seminatori generosi, che sanno seminare con larghezza e generosità, sapendo aiutare i ragazzi a dissodare il terreno della loro mente e del loro cuore. Grazie Don Lorenzo, l'appuntamento con questa rubrica è fra due settimane. Buon lavoro e buon anno scolastico. Grazie a voi, anche a voi buon lavoro e buon cammino in questo nuovo anno. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.